Cadi e la scivola sul ponte di Brooklyn. Ascolta, sti acuti, non toni. Vorrei che per te fossero solo tuoni. E poi pioggia, dorata e cash. Il nostro amore easy chic, fare piovere per te. Distanze dirette tra me e te. Al massimo piovono pietre. Stanco delle buffonate. Stanco delle buffonate. Stanco delle buffonate. L'inferno dentro gli occhi del rispetto, concetto lento, vento. Io non mi diverto, certo lento. Scappo via dallo spettro, vento. Urli se dormi nel mio letto, distratto e mento. Vendono scarti a pacchi, funziona a testa croce. Prendi o lasci, fiori a fasce. Soldi a ventagli, il cuore pieno di tagli. Un nome per gli sbagli. Tutti inganni e cani, tu lo sai com'è che funziona. Finisci male, la gente non perdona, no, mai. Finisci nei guai, io ti picco coi lacci dei Nike. Con le lacci dei Nike, con le lacci dei Nike. Puttana, girati e fammi diventare un Dio di plastica, alata, alata, versi di vero, di eroi, siamo versi di mondo nel mio palmo, canto, calmo, se ti faccio saluto con la mano, come Messi, nano disumano, le macchine fanno la coca, le guai, mentre suono lento di balla bianca alla bianca e purissima diabolica, angelica, diabolica, cocaina come la strada, come la strada, diabolica come la strada. So